Succede qualcosa, una sorta di collegamento, per cui inizio a fare qualcos'altro. E questa era la sigla. Ok. Buonasera a tutti ragazzi. Ciao reverendo, ciao doctor. Buonasera ciao a tutti dall'arte del vizio. Ciao Palmiro. Tutti si sente che sei tornato in studio, Palmiro. Che sono tornato in studio, sì. A rompervi le scatole, ovviamente. Ok. Va bene, e cosa dire, questa serata è iniziata un po' spenta. Manca una cosa. allora, sì, 13 dicembre. ACAP Day, 19-11. Auguri, carissime e carissimi ascoltatori a casa. Sì, buon ACAP Day a tutte e tutti. Partecipate con noi a questo gioco, siete all'arte del frizzo. All'arte del vizio. E l'obiettivo di stasera è farsi censurare da Wombat. Sì, stiamo facendo schifo, non sta neanche mettendo una canzone di Tappetino, che tristezza. Va bene, l'obiettivo di stasera è anche farvi restare in ascolto per 2 ore. Per due ore ad ascoltare il nostro super evento specialissimo, esatto. Appunto abbiamo degli ospiti molto speciali stasera. Secondo me è un vullai, stare 2 ore ad ascoltare gli Incamiscia. Davvero. Buonasera a tutti, qui gli Incamiscia, abbiamo digestivo agli strumenti e Simon the Singer. Buonasera. Originale. Yes. Gli originali digestivo e Simon the Singer. Ciao, buonasera, che bello che avete avuto il coraggio di invitarci qua per ben 2 ore. Davvero, dovranno avere più coraggio i nostri ascoltatori a seguirci tra le nostre cazzate e il resto. Quindi. In camicia. Ma io mi volevo chiedere tanto una cosa, come mai non è partita la sigla più bella del mondo? È partita questa tua registrazione. Solo l'interludio tra un pezzo e l'altro. Sì, secondo me mai dato il file sbagliato. Una sola, sì. Si inizia malissimo. Vabbè, mondo boia. Cari ascoltatori e ascoltatrici, avremo qualche minuto di alcuni minuti di problemi tecnici e quindi magari intanto per riempire questo vuoto partiremo forse con qualche domanda da parte. Ma che domanda, dai? Senza domande. Ma no, sì, allora partiamo dall'inizio. Allora, dall'inizio. Cari e cari che siete a casa ad ascoltarci, forse, vi invitiamo a interagire con noi col programma qui a Frittole, scrivendoci a frittole@gattini.ninja. E appunto per porre domande scomode a questi due giovani che si fanno chiamare In Camicia, fanno parte di questo complesso musicale che secondo me più che musicale è complesso in senso figurato. Mentale. È un complesso che vive da ormai più di 10 anni, giusto? Da quando risale il primo In Camicia production, la prima incamisciata. 2006, 14 okay. Anni appena, sono tanti. Mi ero appena laureato, sì. Ho appena buttato via la mia laurea e avevo deciso di diventare un musicista. Ma quindi bisogna essere laureati per essere in camisci? Smettere di fare musicista e fare l'incamisci. Ah, ok, ok. Abbandonare tutto. Va bene. Stavamo facendo un sacco di cose musicali e le abbiamo deciso di cambiare completamente la vita musicale. Di uscire dallo spettro dei musicisti e diventare in camicia. Esatto. Bravo. Comunque, tagliando corto. No, volevo ragguagliare. Ce l'ho fatta. Volevo ragguagliare i nostri ascoltatori e ascoltatrici su come mai abbiamo invitato gli In Camicia stasera qui all'Arte del Vizio. Come mai? Allora, è successo che l'8 dicembre, che è una data molto importante per noi, per tutti, posso dire per tutti i credenti? Scusate, no. Io non so come rispondere. L'8 dicembre è uscito l'ultimo album degli In Camicia e quindi avevamo deciso appunto di organizzare questa serata, invitarvi e rompervi un po' le palle, farvi un po' suonare, no? Un po' di cose strane. Possiamo mandare cacca? Di già. Sì, senza la sigla io non sì, riesco. Sì, cioè okay, non abbiamo ancora mandato un pezzo. Allora mandiamo il pezzo. Sì. giro vago. Oh, ecco, ora sì che possiamo cominciare. Grazie a tutti di averci invitato. Olè! Evviva l'arte del rischio. L'arte del rischio di invitarci qua, che bello. L'arte del rischio, l'arte del rischio. Buonasera a tutti. Cacca ve l'ho proposta apposta come sigla, perché come si sa, oltre i 30 secondi non funzionano le sigle. No, assolutamente no, devono essere corte, concise. Però mi avevi dato il file pacco. Ah sì, dove hai trovato il file spacco? Sempre nella cartella di cose belle, però file spaccio. Ora l'ho scaricato. Bellissimo, bene bene, meno male, sarà tutta così, immagino. Assolutamente sì, però nel dubbio mettiamo un tappetino. Esatto, che bella questa. Questa come si intitola? Lo sapete voi? Questo è il disco lounge, proprio da cocktail, che è il secondo disco non ufficiale degli Camiscia, credo. Cose Casino, dal bellissimo titolo Cose Casino. Cose Casino. È che c'ho un problema che ora mi giro così riesco a vedervi. Ora ti sento molto bene, Simon. È il nostro secondo bene, disco non voglio. Ufficiale, unico disco strumentale degli Incamisci, a parte Ciccio. Esatto. Questo è forse a caso, ma hai messo il pezzo in realtà che ha poi avuto più successo di quell'album senza saperlo. State parlando di Salmonella e Listeria. Esatto, scritto con l'apostrofo. E disco per batteria preparata e sintetizzatore, risalente al 2010 forse. Sì, proprio quello lì, quando ci chiudemmo, autochiudemmo. No, dopo. O poco dopo, e in cantina, la ora... Handbanging studio a suonare queste cose con batterie raccattate dalla lavastoviglie, dalla lavatrici, con distorsioni a palla, una ricerca ritmica, insomma. No, nessuna ricerca, non ci confondiamo. No, allora ripigliamo il filo del discorso. È uscito un album e poi, un album. Quando? L'8 dicembre, degli In Camicia, e si chiama? Jean Beaumont, è un nome molto interessante, quindi posso partire con la mia sequela di domande o posso farne una? No, possiamo anche mandare un pezzettino subito, come vogliamo. Ok, no, comunque, vabbè, cosa vi ha spinto a produrre un nuovo album, a parte... La noia? La noia. No. Questo album è frutto di... È frutto di tanto lavoro, è frutto di che abbiamo queste canzoni, abbiamo iniziato a registrarle nel 2018, no? C'è scritto proprio sulla cartella 2018, e l'abbiamo finito ora perché poi è una cosa, sai, c'è tempo, poi c'è la quarantena. Siete molto impegnati voi altri, vero? Avevamo tantissime cose lì buttate sul computer e si è detto rendiamo bello quest'anno, soprattutto questo Natale. Sì, volevamo fare un dono ai nostri, all'umanità fondamentalmente, un bel disco di Natale. Grazie. In questo momento di tristezza, insomma. Capisco, quindi è un album un po' dedicato, cioè filantropo per i beni di tutti noi. Più che filantropo è per amore, autoamore. Musica vera. Okay. esatto. E come mai è Jean Beaumont? Allora, in realtà ci potrebbero essere anche dei motivi, che forse però che non so, mi piace tanto la parola. E poi mi ricordo quando c'avevo le interrogazioni prima liceo, no? C'era Magrini e Zinze, che ti faceva leggere questi testi, e l'unica cosa dovevi sapere le figure retoriche, l'analisi del testo, senza... e l'unica che mi ricordava era Jean Beaumont, si riconosceva subito, facilissima, e era anche la mia parola preferita. E quindi, siccome noi in Camicia usiamo solo parole bellissime, abbiamo usato la parola Jean Beaumont. Ok, quindi una scelta stilistica alla fine, puramente estetica. Ok, va bene, si abbina molto bene con la copertina del disco, che non possiamo descrivere in radio, ma immaginato, l'andate a vedere. Troppo bella per essere descritta a parole. Esatto, sì, era anche un tentativo di dare, insomma, darsi un po' di tono, diciamolo. Quando uno usa parole difficili, giustamente. No. Soprattutto se sono francesi, ti fa sentire meglio. Fa sentire un po' importante. Un po' più sopraelevato. Esatto. Io farei subito un salutone agli ultimi arrivati in studio. C'è il buon Bepi, che giustamente la domenica sera non manca. E poi un'ospitessa specialissima. Viva Carmine! Ciao Carmine, sei stupenda. Carmine è la quarta in Camiscia. È la quarta, in ordine cronologico. In Camiscia Fantasma. E ora è anche la quinta. la contemporaneamente quinta. La quarta e la quinta. Ah, ora, okay. Ma porta il quinto in camicia in sé. È già membro del gruppo. Il quinto elemento. Perché Carmine si riprodurrà per mitosi e diventeranno. Esatto. Ah, ok. Suonando in quello studio in camicia si moltiplicano così. Funziona. Era l'unica fisiologicamente biologicamente a poter portare il membro dentro di sé. Ok. Perché detta così è come è noto, le donne sanno autosecondarsi. È vero. Mi era sfuggito questo dettaglio. E sono la vera star, infatti sono arrivata per ultima, mi sono fatta un po' aspettare. Benvenuta. Grazie. Va bene. Io mandiamo subito il pezzo che mi è piaciuto di più di tutto di questo album, che potrete tra l'altro trovare sul fantastico Bandcamp degli In Camicia, che è incamicia.bandcamp.com al modico prezzo di 7 euro o più, e scaricatelo per supportare. La pace nel mondo. Tra poco arriveranno anche i CD, 10 euro. 10 euro presi bene, cioè presi benissimo. E le audiocassette. E l'amaro. E l'amaro la vita. Vabbè, ma comunque. Sponsorized. Andate sul nostro coloratissimo Bandcamp a sostenere l'autoamore. O ad ascoltare semplicemente. Vai. Allora, Giampi mi ha regalato questo amaro che dice che non è dolce. Pare sia amaro. Non lo so, Dolce non è. Sembra la mia vita. Amaro. Vero amaro. Direi. Amaro la vita. Amaro come la vita. Sciolle belle fie. Sciolle belle fie, sciolle belle fie, sciolle belle fie, sciolle belle fie. me la foto, me la foto, la tua tipa, la tua tipa, me la foto con il braccio, con il braccio, me la foto, la tua tipa, la tua tipa, me la foto con il braccio, me la braccio. Oh vai, abbiamo appena ascoltato Tornabuoni. Tornabuoni. Avete abbassato le luci, bello, adesso è tutto più intimo. Io volevo dire una cosa importante, volevo dire, se posso, sì, posso sì. dire una cosa importante, posso anche dire una cosa non importante una, o stare zitto. Solo una ne puoi una. Dire. No, che come avete sentito c'era la pubblicità dell'Amaro La Vita, che abbiamo deciso di vendere spazi pubblicitari, capite perché si fa più soldi con la musica, quindi se volete mettere inserzioni nella copertina del disco, su nelle canzoni, non so, uno a un certo punto dice, no? Amaro la vita. Ti capiamo. Abbiamo mandato il nostro album a Ikea, l'abbiamo mandato esatto. a tutti i grossi centri commerciali, ancora ci non sono ancora risposto. Un sacco di spazi, cioè abbiamo ancora un sacco di spazi a disposizione, se volete promuovere la vostra azienda, la vostra piccola attività, mandare un messaggio d'amore a qualcuno. Reverendo, la tua ditta di produzione di tavole da surf, forse? Ci farò un pensierino. Quella ci sta, quella ci sta. C'è un tariffario. Comunque vi capiamo, anche noi qui da Frittole abbiamo iniziato a mandare sono più spot. 4.000 euro per stare dentro la canzone, 8.000 euro nella copertina del disco. Infatti poi 20.000 in su se volete, se, non so, se che può, andiamo in giro. In ogni brano c'è, cioè, infatti, se notate qualcosa, lo scoprirete ascoltando piano piano, che richiama gli sponsor. Qua c'era nominata Coca-Cola. Un altro c'è nominato. Pagano bene, d'altra così, parte ragazzi, pagano bisogna bene. Vivere, se no non ci si fa. No, no, mi sembra Coca-Cola o con la cola? Con la Coca. Cioè, tutte e due. Abbiamo chissà. Fatto la pubblicità a tutte e due. Abbiamo preso un monte di soldi questo pezzo. Per il bra che vuole. Sì, parliamo un secondo del pezzo. Oh. Cioè, ci sono. Quale cioè... pezzo? Quale pezzo? Vabbè, scusate, sto zitto. Andate avanti. Ok, quindi ora ci suonerete un pezzo live. Del nuovo album. Giusto? 3, 2, 1. Nessuno ci crede che qua ci sono un sacco di strumenti, ma io lo testimonio. No, perché nessuno lo può vedere. Esatto. Però e vi facciamo sentire subito qualcosa. Certo. Ok, quindi ci suonate. Vi suoniamo Angiolina, okay. Una nostra operetta licenziosa, molto simpatica. Non ho il timpano, non c'è Cesar, manca Cesar al triangolo. È Igor. Ok. Angiolina, carezze di scrotto, mi riempi quel vuoto di dentro che ho. Angiolina, carezze di scrotto, mi svuoti quel pieno di dentro che ho. Angiolina, carezze di scrotto, mi svuoti quel pieno di dentro che ho. Se tocchi più forte, mi smuovi le corde, io sfioro la morte. Mi piace quel sacco, posso trovare. Mi piace un sacco, quel sacco, un po' dolce salato. piace un sacco, un po' dolce, salato, un po' caldo e vietato. Cazzo, sì. Amen. Angiolina e le sue carezze. E questa è sempre quella che apre i concerti, che a voce fredda è perfetta. Per scaldarmi buona, buona per i tenori per buona per l'8 dicembre, per questo l'abbiamo messa nell'album che è uscito l'8 dicembre. L'8 dicembre. Buona un po' per tutte le occasioni. Per, diciamo. Tutti. per ogni sera, ogni mattina. Sì, mi sembra che tutti i vostri pezzi abbiano un sacco di livelli diversi di lettura. Qua diciamo ci sono un po'... cioè un certo stile di musica, un tenore abbastanza alto, insieme a delle carezze di scroto. Scroto. Ma sì, questa è... Guarda, Reve, che siamo spiritosi. Se ci aiuti a definirci lo stile, ti sì, era quello che ti facciamo una staffa. Chiedervi stile anch'io, barocco. Che stile barocco. Voi ci aiutate a capire cosa vuol dire l'arte del vizio. Ah, giusto, vabbè, dai. Dai, sì, la prossima volta. Allora. Sì, è che lo stile non si definisce, lo stile è, punto. Va bene. Ma io volevo chiedervi una cosa, perché io vi vedo qui in 2-3, che è arrivata Carmine adesso. Ma Cesar dov'è? Dov'è Cesar? Che è, cioè, come sapete... Presentate Cesar a... un'entità all'ascolto che non lo conosce. A saperlo, non perché conosce. Chi l'ha mai visto in faccia? E vero. Questa è la vera domanda, è chi è? Eppure chi è? Ma glielo chiediamo. Eppure è famoso. Si prova... Ma chiediamolo a lui, sì, perché neanche noi sappiamo. Anche bene. Perché è già arrivata una domanda. Ok, esatto. Infatti è già arrivata una domanda da un by anonimo, dai un day a questo anonimo che chiede... Vorrei sapere se Cesar, the wrestler, è fidanzato. Ma chiediamoglielo direttamente a lui. Chiediamo direttamente a Cesar, the wrestler. Pronto? Ciao Cesar. Senti Cesar. Pronto? Boom boom boom. Non dovete dire così, dovete dire... Che cavallo! Allora, dragone, dove sei? Che fai? No, ci ha messo giù. Non ci sentiva. Ci ha riattaccato nel viso. Cesar se la tira sempre un po', è il motivo anche perché non è qui in questo momento. Ah, è con voi solamente... Giustamente dosa gli interventi al grande pubblico, dosa i regali al grande pubblico. Non era fine. Quindi è con voi solamente negli eventi di poco conto. Non era inserito il cavetto. Esatto. Ah, okay. Non era inserito fino al fondo. Quindi, comunque, come chi è? Come definirlo? Stiamo richiamando, attenzione. È un po' riprendendo. Sì, pronto? Pronto? Ci senti? Ci senti? Sì. Eccolo! Oh, ciao. Boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Allora, dragone? Ma insomma, ora... Abbiamo provato. Ora che ti abbiamo telefonato, boh... boom, boom, boom, direi. ti abbiamo... Però... Tutta un'altra cosa, ora. Però... ci senti Cesarin? Mi senti? Sì, mi sento. Praticamente è nata una domanda che abbiamo pensato di chiamarti. È nata una domanda? Ok, dalla mail ci hanno mandato una domanda e un by anonimo voleva sapere se te, Cesar De Brester, sei fidanzato. Ora non so quanto, vabbè, comunque. Vabbè, facciamo altro po' di cose. No, ma tu lo sai che noi artisti siamo tutti single. Ok. Siete dei freelancer, quindi... Cioè. Anche quando sei sposato sei single. grazie per averlo ricordato. E anche eterosessuale. Anche tra l'altro. È una bella filosofia. Assolutamente single e eterosessuali tutti. E c'era poi anche l'altra domanda che mi ricordo che mi sembrava fosse tipo chi sei nel gruppo. È difficile questa. Identificarti. Ma guarda, sono 17 anni che mi chiedo anch'io chi sono e non... Ma perché hai 17 anni? No, da 17 anni mi chiedo la stessa domanda, chi sei? Chi sei tu? Prima lo sapevi e poi te lo sei scordato? Fino a... No, prima non me l'avevo mai chiesto, non me l'avevo mai fatto questa domanda. Ok, tutto chiaro. Hai iniziato a farti queste domande quando sei entrato, diciamo, negli incamiscia? No, se no avrei 11 anni, penso. È vero, sono 11 anni che fece la prima. Ma se mi sono sempre chiesto una cosa, ed è bello che te la possa chiedere finalmente ora in radio, anche se, se ci vediamo spesso. Scusate se prendo. No, no, è venuta la domanda. Vostra serata. La vostra che vostro... cosa hai provato la prima volta che hai suonato dal vivo? Non me l'hai mai, non ce l'hai mai raccontato. La prima volta hai suonato dal vivo con In Camicia. No, però non me lo ricordo, però ti posso dire cosa sentivo prima di suonare con In Camicia. Era una grande ammirazione, per quello vi ho chiesto di permettermi questa cosa incredibile, che poi si è dimostrata incredibile. Ti capisco, Cesare, ti capisco bene. Ma l'ammirazione era reciproca, lo sai benissimo. Penso di sì, infatti ci siamo guardati e abbiamo detto perché io sono un gorilla ma te sei un cavallo, Cesar. Ma che, ma te sei un gorilla dragon, dillo, dillo ora in radio che sei un gorilla dragon. Cesar, che effetto un cavallo. Io voglio ricordare anche un'altra cosa, visto che siamo stasera, abbiamo promesso che davamo delle informazioni super segrete. Mi ricordo che i primi live comunque tre negroni dovevano essere ingeriti prima, poi invece piano piano cosa è successo? Perché alla fine hai suonato anche completamente da sobrio, cosa certamente per noi tutti è abbastanza strana, perché i nostri live richiedono un certo livello di... Sì, ma è arrivata l'età, che devo dire, il colesterolo alto, la pressione esperienza alta. Cesar, esperienza. Si chiama esperienza. Ma che vecchiaia, vecchiaia. Nel mio caso è vecchiaia. Voi siete saggi e... Sì, saggi? Saggi. Cosa che state mandando sotto? Sì, c'è un tappeto che è al limite fra il black metal e non so cosa. La picchi norvegese. No, Cesar, io da profano, da grande fan degli In Camicia, dico che mi manchi tanto qua questa sera. Il tuo suono è unico e infatti molte perle non potranno essere eseguite dal vivo proprio perché non sei qua. E vorrei chiederti che effetto fa non esserci. No, mi dispiace tantissimo, però ho deciso che mentre siamo comunisti rossi non si può uscire dal comunismo. Bravo. Quando torneremo gialli, cioè dei 5 stelle, si potrà uscire. Ok, perché gli In Camicia comunque stasera ci hanno promesso che suonavano un pezzo del nuovo album e per l'appunto manchi te, quindi mancherà la tua tromba. Ma se voi vado la prendo e vi suono dal telefono. Grazie. Facci sentire qualcosa. Fagli sentire l'inno dei Gorilla Dragons. Yes. Gorilla Dragons. Perché non lo sapete, ma il nuovo progetto dell'In Camicia è Gorilla Dragons. Abbiamo speso un sacco di soldi. Milioni. Quasi sono rimasti 46 milioni, però. Questa è una delle informazioni segrete che dovevate divulgare. Sono tutte segretissime a noi stessi. Io vorrei sapere, facciamo... Ma cos'è, facciamo... una squadra di baseball? No. Facciamo puppe. No. Si prova. Volete fare puppe? Lui mi sente se suona la tastiera tecnici. Boh. Se gliela mandiamo. Boh, dimmi, allora, Cesarini, dimmi... io ti sento forte. Eccolo. Questa è la tromba del Cesar, dell'In Camicia. Proveremo questo nuovo tipo di live. Questo è veramente hardcore misto a futurismo. Facciamo io ora il Duomo di New York, così Cesar ci fai da solo. Oh, vai. Ok. Madonna, no, che roba. Che idea, eh? Allora, il che Duomo idea? Di New York. Cesar, la senti? Questo è un sì. Affermativo. È in codice è morse. Il clacson della macchina. Ok, quindi il Duomo di New York. Allora, il Duomo di New York, sì. Che vi ricordiamo che era il primo singolo estratto dal nuovo album Un Jean Bonbon. Un Jean Bonbon. Di chi? E vai. Voglio visitare il Duomo di New York. Mi voglio confessare nel Duomo di New York. Accenderò un cero alla Madonna di New York. Mi accoglieranno a braccia aperte. nel paradiso di New York. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh yes, oh yes. Vai Cesar. Si classifica verdura. Ma è pure la zucca. Si classifica verdura. Ma tu ci fai le torti. Ma tu ci fai plum cake. Tu ci fai plum cake. Ma tu ci fai le torte. Ma tu ci fai jeans cake. Mi voglio abbronzare. Ah ah, una lulu bitch. Danza afrodisiaca. Ah, ah, una lulu beach. Ma non ci torno più. Ah, ah, una lulu beach. Con quelle camicie kitsch. Con quelle camicie kitsch. Scendi un bacino ipnotico. Invento un ritmo magico. Il tuo sracato pepa. Non è il mio sracato pepa. Tu para putepa. Shiku tepa. Shiku tepa. Tu shaga du piga du paga du. Cesar, a solo. Eccolo. Again, again, again. Danza afrodisiaca, in danza afrodisiaca, come un piccione, oh mi pavoneggio, oh mi pavoneggio, con te. Che bello. Il nuovo di New York, che cavallo, che all'arte del vizio. È stato bello, è stato bellissimo. Un live veramente emozionante. Vi invitiamo a andarvi a vedere il video di questo pezzo. E vi invitiamo ad andare a visitare il Duomo di New York. Ah sì, appunto. Altrimenti mi incazzo. Cioè, okay. Il famosissimo Duomo di New York. Il 24 sera andate alla messa nel Duomo di New York. Sì, tra l'altro. C'è anche il campanile di New York. Accanto, no, c'è il Duomo di New York e c'è il campanile, c'è il di fronte, c'è il battistero di New York e il campanile, sì, sì. E poi è appena a fianco c'è Honolulu Beach anche. Sì, e poi c'è il negozio della Swatch. Grazie Cesare, come averti qui. Poi c'è Conad. Ma soprattutto lì accanto ci sono i piccioni che ti pavoneggiano. Maledetto. Grande Cesarin, ti vogliamo bene. Grande cavallo. Boom boom boom. Boom boom boom. Siete veramente la mia band preferita. Anche te sei ti la amiamo. Anche te sei la nostra banda preferita. Che cavalli, sei un buon gustaio. Grande Cesar, continuerò a seguire le tue orme. Grazie. Figurati. Ora vi mando il conto. Va. Ciao Cesar, ciao. Ciao. Ti può mettere sulla io app su PayPal. Vai, ciao. Ciao Cesar, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Boom, boom, fatta boom, la speed sempre. Boom boom boom, fatta la speed. Ok, quindi dopo il Duomo di New York continuiamo questo percorso di scavare nel vostro background dalle ultime cose fino alle vostre radici. Ora cosa volete proporci ancora? Volete farci ascoltare qualche nuovo pezzo dell'album o... Allora, ci eravamo segnati la pistola col cuore. No, ah, ok. Col cuore, ok, sì. Ti riposiamo la gola. Perfetto. Questo qui, Pepe, raccomando, immaginatevi di essere con Malgioglio a Capodanno. Sì, ma... questo pezzo, okay, diciamo, l'abbiamo scritto il 30 dicembre per registrarlo il 31 dicembre e pubblicarlo il 31 dicembre alle ore 8 di sera per un dono, sempre, perché noi siamo persone estremamente generose, per i nostri fan, per i loro trenini di Capodanno. Me lo ricordo, con un video super casalingo. No, non c'è nessun video, c'è solo tanta bellezza. Allora solo male. Tanta bellezza eufonica. E tanti cuori. Pistole col cuore. Mandalo. Dritto dentro di te. In studio a Frittole. Tra l'altro volevo ringraziare col cuore. Cogliere l'occasione per ringraziare il maestro Morricone per il e poi soprattutto chi ha inventato la chiusura soldo. La cadenza. Chi ha orecchi grossi ascoltando gli album tutta la storia in camicia potrebbe notare una certa ricorrenza. Come si diceva, il fil rouge, no? Un tren, sì, sì. Tren qualcosa. Un tren de vie. Leitmotiv. Très bon. Tu se tien. Ma la base è sempre di quelle preimpostate sulla tastierina? Il soldò? No, questa... Assolutamente sì. Ah, ok, ok. Questo ritmo mi così caraibico. Un soldò, visto che io non ho questo orecchio gigantesco. Va bene, attenzione, aspetta. Ah, ok, va bene. Wow. Quindi ecco, come finita... Come... Ma facci sentire questa base. Ce l'hai la base, tutti, la base originale. Okay, come finiscono tutti i pezzi? È diverso dall'arre, tutti i musicisti, è uguale, è comunque lo stesso intervallo. No. No, soldò è solo soldò, che è come la re. Ah, se avete delle obiezioni a tutto questo, scrivete a frittolechiocciolagattini.ninja. Per favore, fateci sapere cosa ne pensate. E soprattutto ricordate, in qualunque tonalità siate, ovunque vi trovate, soldò. Cioè, soldò. Un c'è verso, un c'è verso. Vediamo qualsiasi musicista a criticare esatto. La disparazione che... di la re e soldò. E si sa che il dio denaro preferisce la re. Sempre lui, No, il soldo. Ah, il soldo, il soldo, il soldo. Vabbè, scusate, anche stasera. No, no, attenzione. Oddio, oddio. Altri ospiti importantissimi. Una super quest stasera all'Arte del Vizio. Spettacolare. Altri attori. Spettacolare. In camicia più tante altre sorprese. Direttamente da Radio Contado e Radio Pesa abbiamo qui la dama. Ciao a tutti. La dama in arte, coprotagonista, ballerina di uno dei nostri video. Ah, ma ci sei anche te nel mezzo a questa banda? Nel primo video in camicia, passava di lì per caso. Poverina. Ed è stata, ed è stata incastrata e vestita. Cicciarrita, boom boom boom. Tutto torna, tutto torna, arrivi al momento giusto. Anche questo video. L'occasione, il Fil Rouge Trend V che ci porta a parlare del vecchio disco. Il vecchio di The Incredible Sound of In Camisha. Esatto. È un vecchio disco, ma è sempre attualissimo. A quanto mi era parso di capire, il primo vero album. Primo album ufficiale. Il primo album ufficiale. Ok. Si sa cosa gli dà l'ufficialità. È il fatto che ha 12 tracce. Che ha 12 tracce. Primo, bravo, è un attento osservatore. È più lungo. Il nostro reverendo, ragazzi. No, ce l'ho qua sotto, ho letto il numerino. Ah, ok. Ma mi chiedevo una cosa, ma c'erano altri fan da scartabellare o si va dopo? No. Beh, potremmo subito chiamare Jessica. Chiamiamo Jessica, la terza ballerina, così abbiamo completato il corpo di ballo di Cicciarrita Boom Boom Boom. Che grande artista, anche quello vi invitiamo. Grande artista della zona romana, di Colli Romani. Vi invitiamo a guardarvi il video, che è un'opera d'arte, è un'opera d'arte pura arte. Sperando che risponda, comunque mi faceva giustamente notare prima Carmine che lei, insomma, si vede solo ai live, per cui siate, cioè, ai prossimi live. Sì, infatti mi sto ubriacando perché soffro moltissimo, perché in questo mondo triste in cui non esistono più live, io non esisto più nell'incamicia e quindi è tutto solo nella mia testa. Fingo di far parte di questo gruppo, di essere la musa ispiratrice del cantante Simone, di essere al pari di Cesar, ma è tutto pura fantasia, in realtà non esisto più. C'era chi cura i costumi? Chi cura i costumi? Perché allora guardiamoci video, perché nei video c'è tanto di Carmine. Quindi diciamo che Carmine è da corpo alla nostra musica. Una semplice costumista e truccatrice. Troppo modesta. Siccome in radio, l'ho detto, la star del gruppo. In radio non possiamo farvi vedere i video, però vi faremo ascoltare. Vi facciamo ascoltare e vi invitiamo a cercarvi. Comunque live ce ne sono tanti, pezzettoni di live. Carli. Linkeremo tutti quelli che ci stanno ascoltando questa sera, se poi vanno a riguardare la scaletta, troveranno il link di questi meravigliosi video dove la nostra Carmine ha dato il suo enorme contributo. La scaletta sarà impossibile di farla, metteremo tra l'altro, cioè, proprio come ogni cliché che si rispetti, io sono proprio colei che ha fatto, per far gavetta, si è fidanzata con uno della band per entrare a far parte della Confermo. Capito, l'arrivismo nella galla degli eventi scottanti. Esattamente, i cliché dei cliché. Volevi far caravano uscisse questa informazione, ma è tutto vero. Sei la gruppi che voleva fare carriera. La fare carriera, in realtà, per raggiungere il cantante, però ma solo fidanzata? Solo fidanzata. Ai. Comunque Carmine, mi sembra che tu dia, comunque diciamo, stiamo chiamando Jessica. Rapporto corale. Eccola. No, quello anche. Che possono anche essere in live anche. Come ora, appunto. Certo, cioè. Ne sentirete delle belle. E niente, vedi, no? Niente. Ci sta paccando. Ci sta paccando. Io manderei. Proviamo a ricamarla dopo il pezzo, a vedere se sì, ci risponde. Sì, dai. Vai. Proviamo a sto pezzo, vai. C'è Ciarrita? La Ciarrita. Boom boom boom. Vabbè, questo è veramente il singolo più famoso. Come fare gol a porta vuota. Bom, davvero. Cicarrita. Che puledro. Questo reggae rom. Complimenti. Reggae rom. Il reggae rom è forse uno degli stili, possiamo dire, ci appartiene. Stiamo chiamando a Jessica. Sì. Nuovamente. Regola. Pronto? Ciao, Jessica. Cari. Ciao. Ciao a tutti. Come stai? Io benissimo. Spero bene. Voi anche. Che certo. Bello, che bello. Siamo qui, eri l'unica ballerina che mancava all'appello del video. Oddio, che bello, ci sono anche già tutte, è bellissimo. È vero, anche Damiano. Anche Damiano. Io penso, penso non ci vediamo da allora, Jess. Penso anch'io di sì, infatti sarebbe bello girare un altro video. Sì! Se lo stappare. Abbiamo stappato la bottiglia che ha colpito la tastiera, quindi questa tastiera Jam si sposerà con... la Casio con me sono okay. Con te no, nerd, io Jessica l'ho ribeccato a Roma di recente. Siete fantastici, cioè, tornate a Roma. Ciao Jessica, sì, benvenuta all'Arte del Vizio. Senti, ti volevamo tipo, ci hanno appunto detto che sei stata una delle ballerine protagoniste. Mm-hmm. E è vero, è vero. Si voleva chiedere che emozione hai provato, qual è la sensazione che si prova a essere una delle performer dei video degli Beh, guarda, super esperienza, no, tipo super genuina, l'arte a tutto tondo, di super sperimentazione. Cioè, tutto arte che poi a tutto tondo. Sì, okay, è del pacchetto in camicia. È stato proprio un'esperienza, diciamo, a 360, proprio platonica. Sì, troppo. Posso dire, è la stessa cosa che posso dire di lei, è una delle mie artiste italiane preferite. Ah, ok. Sì, mo, grazie mille. No, prego, lo sai, se no non ti avremmo chiamato. Complimenti che volano. No, quanto amore. No, è vero, è vero, andatela a cercare. Stima reciproca. È una delle poche, secondo me, si può dire punk. Sì, si può dire. Una delle vere cazzo artiste, una vera punk. Oh, dai, anche voi siete troppo nello spirito, amici. Allora, io una degli ultimi, veramente. Avevo un paio di domande, un po' inopportune. Assolutamente. Mm-hmm. E per te e per tutti i componenti di King Camicia, anche riguardo soprattutto a questo pezzo, volevo chiedere. Stiamo ascoltando Cicalina, boom boom boom. Ora, in questo momento. Ok. Comunque, le mie domande erano su Cicciarrita, boom boom boom. Volevo chiedere qual è stata la reazione dell'opinione pubblica all'uscita di Cicciarrita, boom boom boom. All'ascolto e anche, diciamo, alla visione di quello che è stato il video, un po', diciamo, posso dire spinto? Ora non vuole essere un giudizio. Sì, ci hanno dato di estremi. Sempre da punti di vista, penso, sì, perché sì, ci sì. Sono cose che comunque girano maestrini, che sono molto spinte, quindi è perché comunque era girato tipo in una specie di ambiente un po', diciamo, trash, quindi non convenzionale. Ma solo un pochino. Solo un po'. Ok, quindi io penso che sfumature, siano cose molto più spinte. E quello era molto anche ironico, quindi... Cavallo. Ironico. No, non siete stati così tanto, diciamo, però sì, penso che qualcuno avrà, magari ci saranno costati qualche sangue blu che avrà storto il naso, chissà. Ma speriamo. Cioè, è stato dato di estremi da dei panchettoni vecchi a scuola, che estremi erano molto più di noi, per cui questo ci ha dato grande onore. Oh, wow, per l'erezione del cavallo? Non lo so. Raccontiamola questa, è tutto vero, non è un fotomontaggio. Allora, sono molto curioso, vorrei sapere questa L'erezione del cavallo. Allora, per te, immaginati, te la racconto così. Guarda, okay. Tutto era nato da Cicalina, boom boom boom, che improvvisata. C'è ora in sottofondo. Okay. Praticamente improvvisata con una Casio e con Cesare, che a un certo punto comincia a enunciare, declamare dei vari tormentoni che dei cari amici usavano, insomma, di diffondere, ed era appunto Cicalina, boom boom boom. Ma a un certo punto però sentiamo il bisogno di trasformare questa cosa in un tormentone estivo che avesse quindi quelle caratteristiche tipiche un po' dal reggaeton alla musica balcanica, eccetera. Però l'unico elemento che collegava le due cose è questa presenza di sto cavallo, che dovevamo assolutamente trovare per il video. Ma non ci saremmo mai aspettati che nel momento in cui a metà canzone io mi metto in ginocchio quasi accanto al cavallo con una bella telecamera dall'altro lato, non ci saremmo mai aspettati che durante il mio "che puledro" avesse un'erezione questo cavallo, ripreso in diretta. È immortalata, e quello è stato l'apice, penso. Trovatemi un regista nel mondo che è riuscito. Domandiamoci su perché un cavallo a "che puledro" abbia un'erezione. Tanta roba. In camicia uno, cicciolina uno. Oserei definire una serie di fortuite coincidenze, dai, insomma. Muscolo rosso gli fa una sega di Cicciarrita, boom boom boom. Senti, ma okay. io invece volevo accodarmi alla domanda che ha fatto Palmiro. Però a me non mi interessa l'opinione pubblica, a me mi interessa l'opinione privata delle vostre famiglie. Cioè, cosa pensano i vostri cari, le vostre nonne, i vostri genitori quando vedono ciò che create? Farei rispondere che vi dicono? Cavallo, io farei rispondere mia zia. Ecco. Jessica, diccelo te. Beh, guarda, allora la nonna non ha visto niente di tutto ciò. Però succede, per esempio, ecco, mio padre una volta viene ad una mostra, ad una mia mostra, e dice: questi sono tutti pazzi come te. Quindi, grazie, vabbè, è stato tipo un complimento. Questo c'è una cosa simile è stata detta anche a noi. Scusa, durante un concerto è stato detto: siete catartici, mi fate sentire normale. Questo, è vero. Questo da una tipa con il labbrone rifatto che si era prima a farsi selfie sul palco facendo finta di suonare la batteria. Cioè. Vabbè, quindi comunque c'è accettazione, va bene. Cioè, esatto, cioè, non condivido ma ti accetto. Va bene, è un primo passo. Concordo, sì. E pensate che i vostri genitori vi avrebbero voluto lo stesso bene se avessero saputo che un giorno della vostra vita avreste formato gli Incamiscia? Non penso che ci avrebbero proprio messo al mondo. ok. Confermiamo. Intanto ci mandano un'email e ci salutano da Gil e la Volpina. Siete fantasmagorici, ci dicono. E Gil dice: posso dirlo? Dillo. Gil dice: Madonna marcita nel culo forever, vi loviamo. Che bello. Grazie che hai sbagliato l'accento. Hai sbagliato, mi sa che era marcita. Madonna. Marcita. Marcita nel culo. Okay. Meglio così. Grazie, siete fantastici. Fantastici. Un saluto a voi, vi loviamo anche noi dall'arte del vizio. Ciao Volpina, ciao Gil. Quindi ora, proseguendo a ritroso, passiamo da Jean Bemont. Ma vogliamo lasciare Jessica per sempre al telefono. Bene. È stato bellissimo l'intervento, parlare con voi e salutare soprattutto voi in camicia. Grazie per aver risposto alla telefonata. Sentiamoci presto, domande. Io ho perso il tuo numero di telefono. Grazie a voi. Ce l'ho io, ma glielo passo io. Ciao Jessica, stupenda serata. Ciao, grazie, un bacione, ciao. Ok. Comunque possiamo fare la pubblicità a Jessica, sì, Jessica sì. Idran. Diccelo. Jessica Idran, che potete vedere le sue opere, le sue cose. Scusate, in retroscena della cameraman del video di Cicerita Boom. Chi era la cameraman? Era Adele, che forse qualcuno di voi conosce, che è ragazza di Pistoia, che ora mi sa che credo che fin l'ultima volta che l'ho vista viveva a Pisa. La quale noi cercavamo un cameraman. Ah sì, vengo io. Arrivati lì, ah, questa è la macchina, sì, però mi dovete spiegare tutto perché io non ho mai preso una telecamera in mano. Perfetto. E ha fatto delle immagini spaziali, penso. No, infatti sì, il video è bellissimo, di nuovo vi invitiamo anche a andarvelo a vedere. È arrivata dopo un annuncio scritto due giorni prima su Facebook: abbiamo bisogno di un cameraman. Cioè, è stata recuperata. Sì, detto, io avrei sempre voluto fare la cameraman. E quindi ho detto: anch'io avrei sempre voluto fare il cantante, per cui vieni. E qui però, scusate, si arriva al punto centrale dell'incamicia, cioè il dono di dare la possibilità a chiunque di fare una sorta di arte terapia, cioè di materializzare il proprio sogno nel cassetto di noi comuni mortali che non abbiamo mai potuto esprimerci realmente nell'arte. Qui ci si eleva e ci si inchina anche e ci si inchina. Questo è tutto vero. Questo, come ci dicevano all'inizio della puntata, è appunto quello di donare amore, il compito degli Incamiscia. Esatto, sì. E donare e far vedere anche che il talento, esatto, è qualcosa che forse un po' tutti ci abbiamo, ma che basta tirarlo da qualche parte. Io sono sempre stato convinto che l'arte, se uno si esprime liberamente, senza cercare di imitare questo o quello, l'arte la stai tirando fuori sicuramente. Se ti esprimi con sincerità e porti le cose fino in fondo, non c'è bisogno di essere grandi artisti o di farsi tante pippe mentali. Insomma, questo. Anch'io devo dire che non avrei mai pensato di far parte di un video degli Incamiscia, neanche sapevo che cos'erano, chi erano gli Incamiscia quando mi hanno coinvolto in questo progetto. Non pensavo di avere dell'arte, ma se loro la definiscono così, li ringrazio per avermi dato questo spazio. Sì, ma perché parlando veramente seriamente, no. Cioè, noi abbiamo nato così in camicia, togliamoci qualunque tipo di maschera, di roba, di cose, e facciamo il cazzo ci pare, e quindi giustamente chiunque abbia voglia di fare quello che cazzo gli pare in questo spirito è bello, arriva e magicamente si trova già integrato, perché poi non c'è nulla da integrare, cioè come sarebbe la cosa nel momento in cui la ripulisci e togli l'eccesso, resta poi l'arte. Oh, è così. Poi senza un grande intellettualismo, ma proprio libertà e accoglienza. A cazzo di cane, bom, bom, bom. Anche detto CDC semplicemente, alla cazzo di cane. Perfetto. Fateci Greta, per favore. Vabbè. Ok. Quindi si torna. Questa cantiamola tutti insieme il ritornello. E passiamo alla parte del primo album ufficiale, al vostro pezzo Evergreen. Greta, Greta, come sei bella, ah. Ah, ah, ah. Sei bella come io, una Madonna, pittata sui rimorchi dei cami. Greta, Greta, sei bella, ah. Sei bella pure abbastanza effeminata, ah. La tua delicatezza mi ricorda di certi stopper degli anni 60 oppure 90 o 91 tipo, Pasquale Bruno. Tipo a Pasquale. Greta, Greta, come sei bella, ah. Sei bella come una Madonna che piange sangue. Greta, Greta, sei bella. La tua simpatia alla mannaia, la tua simpatia ricorda scherzi belli tipo a un sasso da cavalcavia. Sono dei violini del maestro. Un applauso. Greta, te la ricordi la pubblicità della mortadella dal cuore d'oro? Ringraziamo Greta. Grazie. Ringraziamo Greta. Ringraziamo Greta per averci donato l'ispirazione per questo pezzo. Grazie. Bella grazie banda. Greta. Bella banda. Grazie, grazie Pasquale prima Bruno. Prima dell'altra Greta, che si sappia. Non è Greta Thunberg. Specifichiamolo. Non è entrata Greta Thunberg. Ah, Tuborg. Okay, okay. Greta Tuborg. Greta Tuborg. Okay. No. Forse Greta Garbo? Forse, a volte. No, neanche Greta no, Garbo. No, questa canzone è stata scritta in un albergo di Torino, cara mia torinese, qui oh, piemontese. Come mai? Quale vicenda? E non è stata scritta, ma in realtà è stata scritta in macchina. Perché io, pensate un po', ero in albergo, mi sono svegliato alle 7 di mattina con questa canzone in testa. Strano. E non avevo niente per scrivere, cioè andavo ovunque, non trovavo niente per scrivere. Gli altri, almeno sono imparato a memoria, ho detto che cosa serviva in Jean Beman, tutte quelle cose che ti insegna a imparare le poesie a memoria. Ma poi mi sono riaddormentato e alle 11 l'ho scritta in macchina. Pensate un po'. E era su una, segreti, su una tipa tale Greta, su cui quegli altri due suonavano con me in macchina, mi hanno scassato le palle per due giorni. Oh Greta, Greta. E io gli ho scritto questa bella canzone. Che uno diceva quanto è bella, e l'altro diceva sì, ma è una truce. No, è una figa, no, è una truce. Quindi... è vero, le disquisizioni che nascono poi su ogni brano sono molto belle. Sono infinite, sono infinite. Va bene, allora io proseguirei scavando in the incredible sound of In Camiscia e avrei, sono ansioso di sentire anche il prossimo live. O volete riposare la voce? No, sì, riposare, tanto è andata. No, anzi, okay. Si è scaldato ora. Vorrei, Simon the Singer. Ok, ok. No, quindi sono arrivati gli omaggi. Sì, Alma d'Oliva, io non posso mangiare. Altro break pubblicitario. Alma d'Oliva, l'abbiamo sotto mano. Non l'abbiamo sotto. Sarebbe da mandare, eh? Non l'abbiamo ancora estrapolato. Palmiro, faccelo. Alma d'Oliva, patè, per te. Ah, ci fai godere. Va bene, va bene. No, a me mi fanno molto godere. Salutiamo il mulo e la Modesta. Ciao, mulo, che sono entrati adesso a frittole. Sera, buonasera, buonasera a tutti. Siete bellissime. Maledette che venite solo quando arrivano gli In Camiscia. Facciamo questo affetto, questo affetto. Ma che cos'è The Incredible Sound? Ah sì, l'album. Cosa dovevamo Io ero ansioso di sentire Valentina. Ah, Valentina, bella. Questa mi piace. Questa è bella roba. Ero curioso. Una bacchetta, così magari. Questa è antica. In realtà, più antica di quando è stato pubblicato l'album. Questa appartiene alla seconda mandata di canzoni degli In Camiscia. E poi un giorno vi racconteremo come sono date la prima mandata di canzoni degli In Camiscia. Forse non un giorno, penso ma sia oggi. Ma raccontatecelo oggi. Penso sia, sarà noi non vogliamo giorno. Invitarvi una seconda volta. Ma figurati se noi vogliamo venire. E quindi, questa è l'unica chance. E quindi ve lo racconteremo dopo. Questa parte è la seconda mandata. Infatti Valentina era la mia fortunata fidanzata dell'epoca. Ah, come avete capito, i testi provengono dalla mente malata di Simoncino. Mente malata. Vabbè, Simon De dalle tue esperienze pregresse, comunque. Dalle mie delusioni d'amore. Okay. No, non è vero, ero molto felice in quel periodo. Infatti, le ho dedicato questa. Così come Angiolina, che abbiamo sentito prima, è stata scritta a quattro palmenti, a quattro mani, con la suddetta. Quattro mammiferi coi palmi. A quattro mammelle. Pronte? Dai. Oh, via. Valentina! Oh, una vagina ti trovai. Oh, in mezzo alle gambe. In mezzo alle gambe, assolo di Cesare. Yeah. Tu dici che è impossibile, ma io la vedevo. Era lì. Se non l'ha presa nessuno, vedrai che ci sarà. Lo so, pare incredibile, ma la natura quando vuole fa i miracoli. Di ciccia, la bocca di una vecchia mi pare, ma te lo giuro, di vaccina si trattò, di vaccina si trattò, di vaccina si trattò, di vaccina si trattò, di vaccina si trattò, di vaccina si trattò. Di vagina si tratto, di vagina si tratto, di vagina si tratto, di vagina si tratto, di vagina si tratto, di vagina si tratto, di vagina si tratto, di vagina si tratto, di vagina si tratto, di vagina si tratto. Oh, Soldò, un applauso a Soldò. Soldò. Tanta roba, tanta roba. Un saluto a Valentina. Questa è proprio una ciao, suite. Vale, ti voglio bene. Ma la poesia di questa, la poesia, la poesia. La poesia, è tutta poesia, la poesia, è poesia, perché solo di quello si trattava, solo di quello. Ma anche di quello. Diciamo di che gli incamiscia vanno un po', secondo me, a sviscerare quello, cioè andare un po' all'origine della musica, cioè che cos'è una canzone, sono parole e suoni, no? Più o meno a tempo, più o meno quello è, cioè va bene. Sì. Comunque mi colpisce molto, cioè, il lavoro michelangiolesco. Sì, sì, ma buttiamola lì. Mi colpisce molto anche il lavoro che fate a livello lirico sui testi, le figure retoriche che utilizzate, le vostre metafore. Una farfalla di pelo o un petalo di ciccia. Petalo di ciccia. La bocca di una vecchia. Bocca di una vecchia. Se vogliamo un po' Catullo, no? Sì, sì, sì, sì, sì. Catullo quando parlava di, no, com'era, la fica di Ciuca. La fica di... Esattamente. Comunque è che voglio dire, perché quella è poesia e io no. Oppure meglio. Fortemente influenzate dalla cultura classica. Infatti uno degli stili di Incamisce ci piace tanto è il classicismo. Oh, non punto. Neo, ma classicismo. Ma che neo classicismo? No, old classicismo. No, classicismo senza nei. Ok, certo, va certo. Va bene, va bene. E chiamiamo Andre. Sentiamo, chi? Se lui ci risponde. Lui ha alle domande scomode. Andre, credo che sia abbastanza ubriaco. infatti. No. Beh, proviamo. Andre, cioè, chi? Ma diteci chi è Andre. Andre è un ascoltato attentamente tutti i nostri album. Ma è lui Andre. Okay. Beh, possiamo passare alla prossima, io manderei un pubblicità. Manderei un pezzo. Mandiamo Antonello allora, mandiamo subito Ma Antonello. Chi è Andre? È un fan che aveva delle domande scomode. Ci aveva promesso di farcele in diretta, ma probabilmente adesso è inebriato, quindi ci chiamerà lui a un certo scomode punto a l'una critiche. Di notte. Ok, si trova in un luogo poco appropriato. No, non critiche, ma con delle domande profonde. Molto bene. Asterisco 154, cancelletto, seguito dal tasto invio. Bella figata sto. Bello. Ok, non facciamo pubblicità alla segreteria telefonica. Questo è Antonello, sempre dell'Incredible Sound. Sembra che tutti i testi in camicia abbiano, cioè i titoli abbiano un nome proprio, ma non è così. Ma cosa dici? Zingari, ma quanti erano zingari? Tantissimo! Tatuate la vita sulla coscienza. Tatuate la vita sulla coscienza. La coscienza, disgraziato, ma non lo guardi il TGLIS, non lo guardi il TGLIS, non lo guardi il TGLIS. Società immonda, quanto va rotoli, tantissimo. E io da grande voglio fare la vecchia, così ti andavo dietro con la mare. Ti sputavo in faccia, e ti sputavo in faccia, e ti sputavo in faccia, la dentiera sulla faccia. Ma io da grande voglio fare la vecchia, vestirmi di un vestito solo, fare i solitari a letto, farmi la bocca con Rossetto. Oh Antonello, oh Antonello. E io da grande voglio fare la vecchia, così ti urlo in faccia con i peli della faccia. E io da grande voglio fare la vecchia, appuntarmi i peli della barba. Per baciare te, per baciare te, oh fammi sentire vera, mordimi la dentiera. Ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone. Thank you. Allora quando ti trovai so di un pero. Quanto fa che assaggiai? Tu! Eri una pera. Più tu mi gabberai, mi gabberai, mi g a u e r fai mandarino. No, soldo. Grazie di questa perla in diretta. Anche qua dobbiamo ringraziare Morricone. Anche qui dobbiamo ringraziare Morricone, non mi ricordo per cosa. Pararara. No, no, no, qualche finale li fa così, no? Forse è più quell'altro delle sigle di Or, di Batman. Cos'è che va sotto? Che è successo? Cos'è? Non ci tornava questa cassa dritta è suonata troppo forte. Quindi ha sbarallato tutto, immagino. Un po' sì, però... Bene, ha fatto rumore, ha fatto casino. Giustamente. Dai, tanto siamo gli Incamisce, mica siamo... Britney Spears. Allora, mica siamo Mozart. Allora... Qui quindi sotto stiamo ascoltando Barito e Tacito. Volete sapere qualcosa su questo? Sì, volevo sapere un po' di più. Allora, l'autore, prova a dirci qualcosa. L'autore delle musiche di Mandarino, partiamo da qui. L'autore delle musiche di Mandarino in realtà non è qui presente, digestivo, colui il quale scusate il pronome, colui il quale ha scrive normalmente le musiche per noi in camiscia. Ma è opera di Vassili Kropotkin, violinista, nonché pianolista nel pezzo qui presente, Barito e Tacito, che nacque nella medesima sessione di registrazione dell'originale Mandarino, il cui presente digestivo era in Messico, e quindi nacque questo brano di musica, diciamo, futurista, sottoscritta alla chitarra, più pianola Casio, esatto. Più... a distanza dal la Messico la melodica diamonica, quelle delle medie diamonica delle si medie soffia. E è venuta fuori sta schifezza. Siamo stati tanto separati, una schifezza progressive. Sì in quei 5 anni di distanza in realtà sotto ha continuato a maturare i bracci sì, di Incamiscia non erano spente, no. Erano lì a è bastato risoffiarci un pochino, poi nel 2011 e è partito un incendio in camicia che brucia i nostri cuori ancora oggi. No, perché infatti prima del The Incredible Sound of Camicia, come mi dicevi, c'è stata una trilogia di EP. C'è stata una trilogia di EP che sono stati Cicalina Boom Boom Boom, l'originale The Original, che abbiamo Cicciarita sentito boom, prima, da non confondersi con la più celebre Cicciarita boom boom boom. E io non l'avevo capito bene. E il sono di noi. La presa dell'orso era il disco di cover in cui c'era tipo non so Americano, la famosa Americano di merda degli Aswad, oppure cosa c'era Porcellina, la cover di Moby, eccetera eccetera. E Ferry Bot, no, Colorado Bot con un po' di canzoni estive tipo Cono Gelato, Onde. Sì, il pezzo se il brano l'EP Surf. Diciamo la fase giovanile, la fase adolescenziale. Adolescenziale. Sì, quella estiva in Bermuda e via. Dopo le medie, le vacanze estive. Esatto. Va bene, quindi limonare duro. Quello. Continuando a scavare, fatto per quello, sì. Continuando a scavare nel vostro oscuro passato. Volevo capire un po' com'è che si sono creati in camicia, quali sono state le dinamiche, le energie universali che si sono convogliate. Ecco. Per andare poi a creare lo racconto io. Sono un rumorista. Vai Simone. Allora, io e il digestivo frequentavamo le medesime scuole. Ti posso fare una base un po' intimista mentre racconto. Le medesime scuole, in realtà non avevamo mai suonato insieme. Poi un giorno a casa sua c'era una balalaika, non so se avete presente la forma triangolare. diciamo abbastanza che ricorda qualcosa, no? Quel tondino nel mezzo e quel triangolo intorno che ci ha illuminato vedendo che la balalaica è stata colta ed è stata scritta alla prima canzone così degli Incamisci, che è La La Fiorentina, che forse dopo ascolteremo. Da lì si è detto: ma questa cosa è bellissima, facciamo un disco. E quindi con i grandi mezzi, c'è cioè un registratore, come si chiamava? Registratore mini disc. Abbiamo registrato. Forse un cioè io la paio sera di canne, sono io basta. Sono la sera sono andato a casa, ho scritto tipo 20 testi. Sono arrivato il giorno dopo, abbiamo registrato tutto questo in tre giorni, perché lui dopo tre giorni sarebbe trasferito in Messico e sì. Quindi in questo lasso di tempo è nato il primo disco, che si chiama appunto Canzoni in Camicia, da cui il nome In Camicia, è legato appunto al Messico, dove doveva andare, insomma tutta una cazzata in Camicia. E questa è la nascita leggendaria, cioè questa diciamo questa triangolo d'amore di legnoso amore che è la balalaica, in realtà è stata la vera fonte prima di ispirazione degli Incamisci. Inizialmente eravate solo voi due, eravamo solo digestivo. Esattamente, okay. Esattamente. No, avrete notato che c'è questa cosa, si ripete questa cosa, per cui ci sono lunghissimi anni di quiete, esatto, latitanze o di quiescenza, e poi a un certo punto in 48 ore esplode il vulcano. È una caratteristica plutoniana, quasi, per dire. E infatti anche l'ultimo album, il video, anche quello, così. Due settimane. Ma che? Ma nemmeno. Una. Una settimana. Cioè un giorno per registrare e poi il lavoro di mix, però funzioniamo così, nel senso è bello anche lasciare queste cose che succedono. Quindi gli Incamicia sono un vulcano. Siamo un esatto, un vulcano sì, che esplode male. Io ho scaricato nel frattempo Porcelain. Ho scaricato Porcelain dall'album La Presa dell'Orso. Ah, molto bene. Quindi possiamo passare Reverendo è sempre sul pezzo. Davvero. Quindi andiamo ancora più indietro all'anno prima dell'album dell'Orso. 2011. Siete sicuri? L'anno vogliamo quello, c'è scritto lì? O vogliamo americano? Anche americano non è male, Americano è più America. Bella. Voi. Ah, scusate, America. Ma sai, durano scusate, un minuto e mezzo. Complimenti per la foto. Ma su Bandcamp c'è scritto 7 settembre 2015. Allora 2015, boh, ma che ne so io. Sì, quando è stata caricata il Bandcamp forse sì, non esisteva esatto. Neanche prima del 2010. Comunque, complimenti per la foto del... Sì, no, vogliamo dire questa cosa importante, che tutte le copertine in camicia sono in realtà originariamente cartoline inviateci dalle più brutte parti del mondo, cioè le più belle, ma anche belle, ma erano le cartoline più brutte inviate dalle più belle parti del mondo. E quella di Enjambe Mondo da dove è arrivata? Da dove in è realtà arrivata? È l'unica, ecco, arriviamo a l'unica che non è una cartolina, è l'ultima che Artefatta. È artefatta. Sì. Complimenti anche per quello. Che fo'. Va bene, quindi si passa da The Sound Incredible of In Camicia a uno alla trilogia degli EP. Sì, andando a ritroso a questa trilogia degli EP e andando ancora a ritroso a Cose Casino, che è l'album strumentale di cui sopra, che abbiamo ascoltato buona parte di sottofondo di questo. Sì, sì, che tuttora sta andando. No, non è questo. Mi sono incasinato. Questo è troppo a tempo, si vede benissimo. No, Cose Casino l'avevo abbandonato un secondo perché mi mancava l'ultimo brano. Con ascolti attenti noterete come più si va a ritroso, più diciamo tutto quello che sembra guadagnatore in realtà è proprio, se ne vedono gli albori, tutto sgretolato, tutto molto più storto. Vogliamo Ionico Corinzio, vogliamo esatto, è proprio una cover e poi suonarne un'altra, facciamo questa bella cosa, eh? Allora, c'ho americano, porcellain, americano. Ma no, americano, io sono molto curioso di che americano. È una bella cover, conoscete sì, tutti l'originale. Dei Trimad, certamente. Allora mandiamo le americano. Oh, ti sopporto, non ti sopporto proprio. Prima sorridi, poi sputi in terra, tu chiedi pace e poi cerchi la guerra. Vattene via, vattene via, vattene via, americano merda. Americano, americano merda. Americano, americano merda. Questo governo che ti ha ospitato, questo governo, governo americano. Vattene via, vattene via, tu sei la mafia, tu sei la polizia. Come possiamo mandarti via in uno stato a base di anarchia? Americano, americano merda. Il soldo è l'unica cosa che resta, no, che resta negli anni, in questi lunghissimi 14 anni di storia, resta. È il vero trend V. Il trend, esatto. Molto, molto curioso, americano. Sì. Infatti vorrei chiedere se potete brevemente estrapolare un po' quelli che sono i diciamo, punti chiave. Ma questo allora, è forse il brano più politico degli Camiscia. È un brano Camiscia. Fortemente politico degli Camiscia. Ma niente, no, fondamentalmente avete presente l'originale. Ma forse non la cantavano, non pogavano, penso loro, con questo brano. 16 anni, esatto, forse, no. E vabbè, era un pezzo che c'era più o meno in tutte le feste universitarie di DJ set, che è dei Trimad, appunto, un gruppo di Firenze, in realtà un gruppo punk rock. Ho detto, ma questo pezzo, se fosse stato degli anni 60, sarebbe stato uno stornello. E quindi un po' giovane. E quindi alla maniera, diciamo, dell'hip hop, abbiamo campionato vari stornelli, buttati tutti insieme, stonati, poi di tempo, e cantato sopra alla maniera, cioè un po' come, non so se avete presente i vecchi in balera, che a un certo punto gli tocca cantare la Macarena, no? E vanno inevitabilmente, oh Macarena, Macarena! Insomma, un po' la stessa cosa, l'idea era quella. Okay. Sì, ma non hai risposto alla domanda, sei andato fuori tema. Ah, scusate, qual è la domanda? Sviscerà il tema, non ho scritto io il testo. Comunque, ah, ok, e chi l'ha scritto? Ma io, non si può sapere chi l'ha scritto. I Trimand, non so come si chiama quello che l'ha scritto. Ah, ok. Comunque, in quanto abitanti del comune di Firenze, una certa simpatia. Esatto, no, ma io in realtà non c'ho nulla contro gli americani. Sono stato anche due volte negli Stati Uniti e stavo proprio bene. Poi la devo dire, anzi, okay. C'è proprio un'aria molto più fresca che a Firenze, sta proprio meglio. Ok. Sì, no, quindi rimanendo no, io no, voglio sfatare sto mito. Allora, uno che è comunista e americani fa schifo. No. Ma l'aria fresca dov'è? Nel Wisconsin? No, aria fresca nel senso c'è un po' più di fermento. Qui a Firenze di Bono sembra di vivere nel 1500. Cioè, sembra di Bono che se devi fare, io fai l'artista, cosa fai? Ma io faccio dipingere gli affreschi. Ma che cazzo fai gli affreschi 2020? No, cioè, nel senso, boh, lì è tutto, sembra tutto un po' più, ci sono, non so, e poi ti dà un po' questa impressione, ora, per parlare seriamente, veramente, che se hai il tuo talento e ci credi, ci puoi arrivare, cioè, sono bravo a fare le sculture di caccole, cazzo, posso farne un lavoro, infatti, questo no. lo percepisci un po' sta cosa, poi con tutti i pro e i contro, per carità, ovviamente con tutti i pro e i contro della società statunitense, però a me è piaciuto. Allora, nel testo ho sentito citare il governo americano ospitato dal governo, e sì, qui mi viene, si collega molto bene a una delle brutte domande. Allora, che chiamiamo i Trima, da questo punto ce l'abbiamo fare. Il numero, chiediamolo a loro. Una delle brutte domande che volevo farvi: se Mattarella vi chiamasse per comporre il nuovo inno d'Italia, allora, subito. Allora partiamo da una cosa: la subito. Terza canzone preferita a mia nonna, prima era con me, la seconda era Caruso, la terza era l'inno d'Italia. Qui non mi toccate l'inno di Babele, perché quindi non la rifareste per principio, appunto. Aspetta, c'è sì, è vero, ma io farei un remix dell'inno di Babele. Sì, anch'io. Cioè, ci così bel ma testo, gli con gli inni siamo abbastanza affini, perché il quarto, puoi dire, preferito invece è l'inno della Fiorentina. E qui ci ricolleghiamo. E qui arriviamo proprio al nocciolo, all'origine. Ci vogliamo già arrivare? Che ore sono? Sì, no. E poi finisce tutto arrivare. All'origine poi finisce. Abbiamo un altro quarto d'ora, poi finisce tutto davvero. Possiamo suonarvi una cover? Sì, è vero. Già, scusate, mi ero dimenticato, c'era la cover. A questo punto, anche questa era una cover, ma questa ve la suoniamo dal vivo, perché farvi vedere che non solo sappiamo fare dei dischi bellissimi, ma sappiamo anche leggere il testo, se mi riesce. Allora suona. Ma da Hana ce la fate poi. Vai, alla, si fa questa attaccata, fine, allora. Le facciamo attaccate. Remember when you were young, you shone like the sun, oh, shine on your gray, you crazy diamond. Now there's a look in your eyes, like black holes in the sky, oh, shine on your gray, you crazy diamond. Half in the crossfire, or childhood and stardom, blown in a steel breeze. So come on, you target for faraway lover. Come on, you stranger, you legend, you martyr. Shine. E questo è uno dei grandi classici del rock, abbiamo sublimato con molto bravi, arte. Bravi. Un altro, cioè, questo era il finale che l'avevamo intuito. Tutto torna. Una rivisitazione molto interessante. Molto interessante. E prima si parlava, tra l'altro, abbiamo fatto un'altra cover di tale tenore, sempre su rivisitando i classici del rock, di Vuole Ole la lotta love. Un pezzo cover rivisitato in versione per doccia e voce, questo per se volete andare per cornetta, l'acqua voce. Doccia e voce, è bellissima, ve la consiglio, andatevela ad ascoltare. Ma si voleva fare l'altra, l'inno, giusto, no, in quanto okay. In quanto fiorentini con il core viola, dignene, no, Certo. Però Voyager, c'è il tempo? Ma falla. Non si può finire senza The Khan, mi raccomando, io non me ne vado. Abbiamo abbastanza tempo per salutare e fare The Khan. E no, poi... ma ci sarà ancora 10 minuti. Vi farei fare da cane e poi arrivate al nocciolo e finiamo. Dai, dopo dai, dai. Su. Al nocciolo, vai. È difficilissimo non ballare, stare fermi. Mi trovavo per la strada circa alle 1.30 dell'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incontro un bel mammifero, modello 103, da Hane. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo le gambe, un portento credi a me. Tu sei troppo. Dane, dane. Tu sei troppo. Dane, dane. Tu sei troppo. Dane, dane. Tu sei troppo. Io so troppo dane, dane per te. So troppo dane, dane. Io ti spezzo dane, dane. Io c'ho il ferro da cane, da cane. Again. Prego, tu c'hai paura di me. Dimmi che ti cacchi addosso se ti guardo. Con gli sguardo da ghepardo. Grazie Armini. E dimmela anche te, bambolina, che ti squagli come una vampira in mezzo agli agli. Perché io so troppo, troppo popò. Scratta pa pa pa pa. Scratta pa pa pa pa. Dane, dane. Tu sei troppo. Dane, dane. Tu sei troppo. Dane, dane. È uno dei miei pezzi preferiti. Camiscia. Uno dei miei pezzi preferiti. Questo si lacrime, vede. Lacrime amare vede, come l'amaro la vita. Come amaro. Amaro come la vita. Amaro. Comprate amaro. Il nostro album, avrete amaro un amaro se volete con qualche euro, dollaro in più. E questa non era una visita inserzionista. Va bene, comunque, siamo giunti alla fine, siamo senza parole, io non ho più domande, sinceramente non ho più nulla da dirvi. Quindi, voi cosa, cosa ci proponete? Come volete finire o chiudere in bellezza allora, questa puntata dedicata a voi? Ma io forse proponendo, non so se in versione registrata o in versione live music del primo pezzo in assoluto degli Incamiscia, direi, sì. Questo viaggio a ritroso. È una circolarità, arriva. Chiudiamo con l'origine, come The Dark. The Dark. No, è l'Home Robot. Dov'è, qual è l'origine? Come Ritorno al Futuro. Ma come il Big Bang. L'origine, come potete sentire in sottofondo, che c'è, mi pare, Chaos. Era un pochino più a cazzo di cane futurista, per surrealista. Rumorista. Urbana. Scurreggesista. Dignene. futurista. È l'Ouroboro, il serpente che si mangia la cola. La cola. La colla. La colla. Si manderà. Quindi ci suonerete o ascoltiamo? Ma la, cosa avete deciso? Ascoltiamola, ma è così bella la versione remix. La, bella. La vogliamo suonare? La suoniamo. No, prima la suoniamo e poi la ascoltiamo. Tutte e due, suoniamola e si prima la suona. Suonatela! Salutiamo tutti o poi saluti finiti dopo? No, ma. si fa i saluti dopo. Sì, sì, sì. Prima della versione remixata. La mattina si va in cucina, si prepara un uovo in camicia, un uovo in camicia. La Fiorentina, la Fiorentina in camicia, in camicia. Solo, solo. Dedicata al Cape. Forza Viola. Ebbene sì, abbiamo cominciato qui. E se analizzate poi il testo, fate un'analisi grammaticale, sintattica, lessica, logico, scoprirete il anche la nascita poi del nostro nome. Okay. E qua si chiude, direi. Si chiude con un mistero per quanto mi riguarda. Non so se avete ci sono arrivato le sigle tipo finale di X Factor, no. Per chiudere un altro velo oscuro sopra il nocciolo. Okay, è proprio vero, è proprio... Tanto su YouTube trovate tutti o meno queste cose, tutti i vostri brani, tutte, e scriveteci tante letterine per Natale. Se prima avevo delle certezze, ora davvero zero. Basta. Va bene, quindi passiamo ai saluti. Ricordiamo che l'album degli Incamiscia è su Bandcamp. Per l'amore dell'umanità e l'autoamore degli Incamiscia, questo album potete comprarlo al modico prezzo indicato sul sito, 7 euro. Sì, sì. Se non sbaglio. Ribadisco che ora in teoria dovevano essere già arrivati, ma non sono arrivati i CD, quindi saranno anche dei bellissimi CD. Perfetto. Corredati di pubblicità. Ti correggo Palmiro, per l'autoerotismo l'autoerotismo per l'amore dell'umanità e per l'autoerotismo. Vabbè, l'autoerotismo entra nella sfera dell'amore, l'autoamore. Tanto Eros in Incamiscia, e quindi se ci volete bene sappiate che ogni volta che ci arriva un pagamento da Bandcamp noi abbiamo tanto amore verso noi stessi, proprio ci piace tanto. E ricordiamo a tutti molto i privati bello, molto bello, che sì, per una modica cifra di 8.000 euro possono sponsorizzare la propria certamente attività sull'album degli Incamiscia, perché c'è uno spazio pubblicitario, due tre secondi, sì. ok alla fine di ogni brano. E ci sono soprattutto, e poi appunto abbiamo il pacchetto regalo natalizio che è bellissimo, perché c'è liquore, il CD, e proprio se uno vuole può anche prepararsi all'estate prossima. Questo non si è detto in queste due ore. Bom, bom, bom. Carmine lo vuole dire, lo vuole dire Carmine, mi sa. La canotta versione intimo o versione estate? Ah, degli Incamiscia. Sì. Tanta roba. Christian Sexy. Christian Sexy. Sì. Perfetto. Allora vi attendiamo. Abbiamo fatte per il giubileo e con giubilo ve le riproponiamo. Sì, sono avanzate tipo 12.000. Arriverà anche quella della Madonna col bambino. Oh. Attenzione, questo è uno scoop incredibile. Okay. Arriverà. Notizie sconcertanti dal palinsesto. Sì, sì, tutta la Sagrada Famiglia vogliamo fare piano piano. Il bambino sarà censurato, ovviamente, il minorenne. Forse anche indicato la mamma. Sulla maglietta. La Madonna no. Tutti erano minorenni, ma vabbè. Ah sì, anche la mamma. Anche allora, bue e anche la censurata anche la mamma. Due la. Va bene, noi okay. Ringraziamo Amaro la Vita per lo sponsor di questa serata. E ringraziamo Radio Wombat per averci dato questo permesso, spazio, esatto, di condurre questo programma. E questo podcast girerà per l'etere per sempre, quindi vi ringraziamo per questo invito, per questa inaugurazione dei gruppi live, mi sa, no? Era il primo vero invito a un gruppo live, prima e l'ultimo. Hai detto forse. Bene, l'arte del vizio sarà dedito d'ora in poi per quanto possibile per diciamo cercare di invitare tutti quei gruppi facente parte della scena underground che ormai è sparita. Io, se volete, ho 12 gruppi. Ok, vai. Allora, questa cosa se ne può parlare. Simon the Singer se ne potrebbe fino parlare. Fino a marzo, Simo è invitato. Perfetto. Comunque, grazie tanto in camicia. Un saluto qui dall'Arte del Vizio, dagli studi di Frittole per Radio Wombat. Ciao, Reverendo. Ciao, Doctor. Ciao, Palmiro. E chiudiamo con Punk Fuffolo. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Bella a tutti. State su Radio Wombat. Alla prossima. Prova. Grappete nei pugni. Io soffro la gioia. Io odio la noia. Oh, oh, paranoia. Oh, oh, paranoia. Oh, oh, paranoia. Spilline da balia dentro le orecchie, spilline da balia dentro i vestiti, spilline da balia dentro tutti i pori della mia pelle. Grigia, pelle grigia, pelle grigia. Oh, pus. Oh, pus. Oh, pus. Io soffro la gioia, io invoco la noia, io soffro la gioia, invoco la noia. Oh, paranoia, oh, paranoia, oh, paranoia. Un punk.